Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. La nostra domenica italiana, Ristoradio Convento, l'happy hour della domenica che ci caratterizza ormai da anni e che da qualche settimana, come dire, si è arricchito di questo spazio radiofonico che già c'era e che abbiamo deciso di implementare per farvi conoscere anche il mondo della domenica sera e soprattutto per dare modo a più persone di esprimersi e di raccontare la loro vita. Mi sento molto invidiato in questo momento perché sono in compagnia di due bellissime ragazze che abbiamo intrattenuto all'ingresso in modo totalmente spontaneo per qualche secondo, sono rimaste e poi sono scappate subito perché come dire non si trovavano bene, quindi erano un po' scontente, se non sono andate subito, quindi cerchiamo di recuperare un po' con questa intervista perché insomma erano un po' tristi all'entrata, non volevano andarsene via e quindi cerchiamo un po' di ravvivare la situazione in questi minuti. Allora, benvenute, come vi chiamate? Ciao, io sono Stefania. E io sono Olivia, ciao. Stefania e Olivia, molto bene, benvenute, da dove venite? Allora, siamo tutte e due di Montichiari. Montichiari, perfetto. Di adozione monteclarense. Infatti, perché sono Sicula d'origine. Ah, Sicula, Sicula siciliana. Posso dire che Olivia è un nome strano per una Sicula? Abbastanza, sì. Perché di solito si va su Carmela, si va su quella quella tipologia. Esatto, sì. Esatto. Come mai? Non sai come mai? Come bizzarro, mi è stato affibbiato questo. Sì, a parte nome, esatto, che è già un nome particolare di suo, a maggior ragione per una Sicula, non sa da dove arriva, da dove. Avevano già previsto le mie sorti, i miei genitori. Cioè? Essendo una musicista mi hanno già fioppato il nome d'arte. Ah, giusto, ci sta, infatti tra un po' ne parleremo. Poi anche vestita di nero totalmente questa sera, quindi ricorda la sua omonima Olivia Newton-Jones che ha fatto Sandy in Grease. Mentre anche lei ha una passione, anche la nostra, la nostra altra amica ha una passione e che racconteremo tra poco. Allora, prima volta qui da noi o ci conoscevate già? Non fare così, sennò mi emoziono subito. Perché sì, se si sistema così a me vengono i calori. Dicevo, prima volta qui da noi o ci conoscevate già? Seconda volta. Esatto. Seconda, che non si scorda mai. Sì. E poi di solito si dice che la terza viene da sé. Infatti sicuramente. Quindi non potete mancare. Seconda volta, ok. Cosa fate di bello nella vita? Così parliamo prima delle cose negative e poi positive. Beh, allora io come. No, aspetta, tu dopo perché sì, tu già fai. Lei ha la do, perché lei avendo la doppia vita, così possiamo parlare delle due cose. La tua unisci lavoro e passione. Esatto. No, non scontata. Unendo lavoro e passione parliamo una volta sola. Quindi tu. Nel mio caso il lavoro non è la passione, cioè il lavoro faccio le buste paga, detta payroll. Esatto, quindi amministrativa in sostanza. Esattamente, mentre la passione sto facendo adesso un corso di sommelier. Un corso di sommelier, da dove ti è derivata la. Intanto com'è il tuo olfatto? Perché dicono che bisogna avere un olfatto molto addestrato e anche le papille gustative devono essere particolarmente sensibili, ecco. Esattamente, le sto addestrando. Si addestrano? Certamente, tutti i giorni bisogna. Quindi è come i cantanti, cioè non è importante, sì, che tu sia più o meno intonato, si può imparare ad esserlo. Esattamente. Ah, ok. Bisogna proprio esercitare questa cosa, non so, tagli una mela e Spiegaci un po' come si allena l'olfatto e il gusto, perché è interessante. Sì, allora partiamo dall'olfatto, che è, diciamo, la prima mossa da fare quando si deve degustare un vino. Tu praticamente devi captare degli odori. Questi odori possono essere di mela, di vaniglia, di ananas, di pepe, non so, anche di legno. E per allenare il naso bisogna semplicemente, tutte le volte che noi mangiamo, tocchiamo qualcosa, odorarlo. Quindi mangio la mela, la taglio, la odoro prima di mangiarla e poi la mangio. E così. Ok, perché il cervello poi ricorda l'odore, memorizza l'odore, perché non volevo banalizzare la domanda e come dire screditare il tuo lavoro, però ok, se un vino sa un retrogusto di mela, per dirti, chi è che me lo dimostra che è vero? Ok, magari tu sbagli e non sa di mela ma di ananas. Allora, diciamo, cioè, che allenando ti avvicini sempre di più. Sì, però c'è anche da dire che le note massime vengono riconosciute un po' da tutti, poi ci sono le sottonote che possono essere individuali, quindi un'esperienza di vita di un certo tipo e capto una cosa che tu non hai mai odorato. Quindi non c'è uno standard, no. Cioè non è tipo come i cocktail che ci vuole un terzo di, un terzo di, un terzo di. No, cioè non c'è, non è che un vino ha delle peculiarità standard, no. Sì, ci possono essere. Che sono quei macro gruppi, esatto, però bravissimo. I sottogruppi sono più personali. Esatto. Vedi, interessante. E come mai, da dove è nata questa passione? Che è molto, anche qui, non voglio come dire, gerarchizzare, è molto maschile, però è difficile un sommelier donna. Beh, io ti dico che però al corso, e siamo in 90, la maggior parte è donna. Davvero? Sì. Ma sta girando allora, sta svoltando, sì, il mercato. Sì, esattamente. E a te da dove è arrivata? Ma la passione, a me è sempre piaciuto comunque il vino, mi piace proprio gustarlo, e questa cosa mi ha fatto partire il desiderio di conoscere anche tutto quello che c'è dietro, quindi il discorso anche di come viene coltivata una vigna, di come, wow, deve essere raccolta, sì, proprio tutto dalla A alla Z. Ma avresti anche desiderio, il sogno di creare un'etichetta tua, un qualcosa di tuo, o resterà insomma solo una passione da degustatrice? Non lo so, io spererei che diventi qualcosa di più. Vedi, sì, quindi già qualcosa ti ha mosso, sì, nello stomaco, anche perché dicevi all'ingresso, se non mi sbaglio, che sei ancora all'inizio, no? Però appena cominciato. Esatto, ho fatto due lezioni. Quindi devi ancora scoprire tante, sì, cose. Sì. Però ho già molta molta passione. Bene, bene, interessante. Quindi due cose, bianco o rosso? Rosso. Tu sei per il rosso? Sì. Ok, e il tuo vino preferito, la tua etichetta preferita, hai già un qualcosa di riferimento? Sicuramente Nero d'Avola. Nero d'Avola, il tuo preferito in assoluto. Sì. Ma non è che lo dici perché per fare piacere a lei, che è sicuro? No, no. Ah, ok. No, no, è veramente quello. Credevo volessi comprarti la sua amicizia dicendo un vino siciliano. No, assolutamente. Ah, ok, no, quindi è realmente il, sì, tuo. Bello, bello, interessante. Mentre, come diceva lei prima, abbiamo qui un'artista a tutto tondo, nel senso che a tutto tondo inteso che proprio ciclicamente nell'arco della sua giornata e settimana si occupa di questo. Esatto. Dici di più, dici di più. Allora, io nello specifico sono una cantante d'opera. Benissimo. Quindi, insomma, sono spesso in tournée, viaggio tantissimo per la mia professione, si studia tanto, tanto impegno, tecnica, per cui sicuramente... Conservatorio, sì, sicuro, no? Ormai non più. Sì, ecco, beh, hai fatto, dico, inizio. Conservatorio, sì. Esatto. Ma sai anche suonare qualcosa o canti e basta? Suono un po' il pianoforte, non sono, okay, una esperta pianista, ma suono il pianoforte. No, chiedo appunto perché so, esatto, che chi arriva a una carriera professionale comunque gli viene chiesto un base di uno strumento almeno. È chiaro, certo. Quindi tu hai scelto il piano. Sì, il pianoforte, perché per quanto riguarda il canto sicuramente è lo strumento utile. Ah, assolutamente, sì. Sei quindi da sola, immagino, non hai una, non tanto una band, però un'orchestra che ti segue, dei musicisti che ti, no, seguono. Le produzioni cambiano, esatto, che cambiano i teatri. Quindi tu sei il singolo, esatto, sei il singolo, esatto, che viene contattato per, esatto, e ti associ sempre, esatto, a un'orchestra, esatto, a una band. Esatto. E come mai l'opera? È una cosa innata, una vocazione. Ecco, non hai mai provato il pop, niente di... Alcun talento per quanto riguarda questo genere musicale, predisposizione, okay, nata per l'opera. Per l'opera e sei andata lì. Subita, fortunatamente, okay, mi piace. Ma hai un agente o ti muovi da sola? Beh, ci sono delle collaborazioni con agenti, certo. Ok. Oggi si lavora, perché assolutamente sono, in ambito teatrale, sono fondamentali, sono fondamentali, esatto. E più o meno dove ti ha portata questa tua passione, cioè che punti lontano, dici, dai, dacci un po' di nomi. Stati Uniti, l'Europa girata tutta, non so, sono stata in Brasile, wow, dal nord a sud, esatto, girato tanto. Dove hai fatto quella di Ipanema, no, non è molto operistica. Russia, insomma, si gira, dappertutto, ecco, si viaggia fantastico, tanto, fantastico, esatto, sì. E da quanto più o meno tempo lo fai a tempo pieno? Da sempre praticamente, ho iniziato giovanissima, ho iniziato a studiare canto ancora adolescente, per cui ho iniziato ventenne già a cantare, esibire nei teatri. C'è? Esatto, per cui da quando ho 20 anni circa. Ok, adesso allora ci devi svelare un trucco, come si fa a non perdere la voce? E ovviamente con una buona tecnica. Ah, vabbè, ho capito, quella è quella per i professionisti, per noi profani... E per i profani, cioè, se io voglio evitare appunto di perdere la voce stando attento e senza fare appunto corsi su corsi, le acciughe di sicuro non aiutano. Ok, quello ci siamo. Quindi anche peperoni, pomodori, esatto, evitiamoli. Evitiamo queste cose. Sì? Sicuramente bisogna un attimino tutelarsi dalle correnti d'aria, cioè sembra, okay, una cosa banale. È fondamentale. Esatto, una buona alimentazione però per quanto riguarda un cantante professionista, sì, influisce tanto anche l'alimentazione per quanto riguarda la resa proprio vocale, soprattutto in fase di produzione. Ah, ok. Esatto. E ripeto, ci vuole sicuramente sicuro, una buona, insomma, scuola di canto, un'ottima, sì, tecnica. Beh, quello però, esatto, è già per i professionisti, proprio, esatto, per dire, per evitare quel mal di gola quando è che ti butta giù e ti toglie la voce. Ma quello inevitabilmente avviene quando non c'è consapevolezza dello strumento, di come utilizzare, certo, la voce, è inevitabile, perché parliamo di muscoli e quindi le corde vocali sono dei muscoli e non utilizzandoli nella maniera corretta è inevitabile, si va incontro a fonie, mal di gola, arrostamenti. Dai, ultima, poi ti lascio. Ogni artista, ogni cantante che si rispetti ha un suo piccolo rituale pre-concerto, pre-performance, diciamo così. Tu hai una cosa tua particolare che fai, ci vuoi raccontare? O ti metti lì, chiudi gli occhi e vai? Beh, direi che meditare aiuta molto. Sì? Meditare, isolarsi e trovare la propria centratura, perché ci vuole una grande concentrazione. Sì, assolutamente. Nervisata. Però non hai un gesto, proprio no, un rituale particolare. Sono scaramantica, che... Okay. No. Che compi sempre prima di. No, che ne so, no. I giocatori che entrano solo col piede sinistro in campo. Assolutamente. Alcuni che vogliono, che ne so, sentivo Beyoncé o Madonna, adesso non ricordo, che in camerino vuole solo M&M's blu e verdi, per dire, perché portano fortuna, dice. No. Non ho di queste abitudini, mi affido indubbiamente al concentrazione, tecnico, concentrazione. Concentrazione. E sì, silenzio. Esatto. Okay. È fondamentale. Bene, bene, dai. Allora, grazie mille ragazze, vi aspettiamo quando tu avrai un'etichetta importante, così ci fai assaggiare qualcosa, e quando lei sarà famosissima, e così noi potremo dire di essere stati tra i primi a conoscerla qui, e poi aver, come dire, diffuso il verbo della sua bellissima voce in giro per il mondo. Dai, tornate a trovarci, però così facciamo un altro po' di chiacchierate, ci aggiornate sulle vostre vite, sui vostri proseguimenti. Va bene, grazie mille. Allora, Olivia e Stefania, le salutiamo, le facciamo andare a divertirsi ancora un po' nella nostra serata qui al convento. Ciao! Ciao! State ascoltando Ristoradio Convento!